Bene, visto il contesto specifico, adesso possiamo dare un'occhiata invece agli altri due elementi. Sì. Erano, il prossimo sono le api. Ne abbiamo un po' accennato anche prima, quindi magari possiamo andare più velocemente. Qui abbiamo detto che il servizio espone, comunica con i suoi client attraverso delle api che comprendono spesso il passaggio di strutture. Queste strutture vengono identificate con il nome di modello esterno per ricordarci sempre che è differente da quello usato, dalla rappresentazione del dominio usata internamente dal servizio. Ok. Dicevamo che se il procedimento di lavorazione, di progettazione è simile a quello delle classi all'interno di un'applicazione, la grossa differenza è che una volta che un client, il primo client, si è veramente collegato a queste API sono immutabili e il servizio ha l'obbligo di onorare il contratto che queste API rappresentano, perché lo possiamo vedere come un contratto, è generalmente l'impostazione corretta. Ha l'obbligo, per sempre, cioè lo deve fare per sempre, lo dovrà onorare per sempre. Finché quel client esiste. Finché esisteranno almeno un client che le usa. È un punto delicato, questo è un punto importante. Eh sì, ha delle conseguenze notevoli sull'evoluzione di un software. Eh sì, e infatti ci sono tutta una serie di tecniche per garantire che queste API sarebbero API, ma insomma. Noi che siamo di Casalecchio. Casalecchio, li chiamiamo così. Ok. Appunto parlavi del problema del versionamento, no? Dicevi. Assolutamente, è la prima cosa a cui ho pensato. Sì, la prima cosa che salta. Se devo mantenere queste API per sempre, come faccio a far sposare questa cosa con la necessità di evoluzione che avrà comunque il mio servizio? Capiterà di dover aggiungere un'operazione, di dover aggiungere un parametro, insomma. Allora, ci sono delle tecniche che consentono di rendere più dolce questo aspetto. La prima è utilizzare un protocollo comodo. Quindi mi escludi già SOAP? Ti escludo un RPC, ad esempio, te lo escludo, perché se ogni modifica che io faccio all'interfaccia devo rigenerare i client, tutti i miei client devono rigenerarsi i proxy per collegarsi, è chiaro che non va bene. Quindi un protocollo molto comodo per questo è REST sopra HTTP. Perché ad esempio, se io decido di aggiungere in un mio modello dati esterno una proprietà, non rompo niente, non succede niente di male. Se decido di aggiungere un'operazione, non ho bisogno di nessun problema. Quindi quando dico che il servizio deve mantenere il contratto con il cliente, intendo dire che deve rispettare la forma di comunicazione esistente, non che deve restare vincolato sempre a quella, può estenderla pur mantenendo la precedente. Non deve evitare quelli che si chiamano breaking change, cioè cambiamenti che spaccherebbero i client. Ok. Un'altra tecnica spesso citata. Scusami, perché io che sono uno sviluppatore, tutte le cose che tu mi dici le vedo sempre nell'ottica a cazzo. Cioè, si può dire cazzo? Non lo so, credo di no, siamo in radio. Ah, ok. O merda. È uguale, stessa cosa. Vabbè, non si può dire niente. C'è un po' di censura. E quando tu mi racconti queste cose, la prima cosa che penso, dico, cavolo, ok, va bene, tutto bello, però mi stai costringendo, andando per questa strada, a tutta una serie di vincoli che mi complicano il lavoro. Certo, perché se io quando aggiungo per una esigenza di modifica, diciamo, quotidiana, cioè il lavoro che devi fare, esatto, certo, nata da un'esigenza di business, devo aggiungere un campo piuttosto che un'operazione, e con queste API esposte tu mi costringi a farlo in maniera da non rompere un client, esatto, esistente che hai già collegato, perché sì, con questi servizi vuol dire interfacciarsi con almeno uno, ma sicuramente più di uno, infatti, client. È così, sì. È lavoro in più. Può essere addolcito molto, però devi avere in testa che le tue API devono restare fruibili dai clienti che hai già. Sì, stai il mio, diciamo, il codice che io prima ero abituato a scrivere e che comunque di cui io stesso ero l'utilizzatore. Certo. In quest'ottica è molto più facile, quasi sempre è così. Il mio codice invece si interfaccia col mondo esterno, sì, e quindi per me diventa più complicato poterlo modificare, poterci fare delle, sì, cose, perché poi ho da, sì, sottostare a questi contratti. È così. E per contro ti obbliga a pensarci bene come devono essere fatti. Infatti. Il vantaggio è quello lì, cioè è tutto fastidioso chiaramente, ma il vantaggio è che tu inizi a pensare alle tue API già in modo molto, con più attenzione di quanto facevi prima. Abbiamo detto utilizzando sempre, cioè ci arrivi in progressione, parti da una più semplice, però una volta che l'hai rilasciata devi essere certo che ti calzi bene, insomma, ti sia comoda. O all'inizio avremo due servizi, quindi potrai sbagliare. Cioè dico, all'inizio avrai soltanto un client, no? Quindi uno la potrà correggere e sistemare, però col tempo bisognerà pensare a queste cose, insomma. E quindi insomma, comunque tu mi dici, con ad esempio l'utilizzo di REST, i cambiamenti che mi possono generare problemi del tipo ok, a questo punto devo cambiare la versione della mia API, si riducono notevolmente, sì, rispetto, che ne so, al cambiamento, sì, RPC, sì, mm, sì, sì. No, per esempio aggiunte in generale non sono un problema. Formalmente l'unico problema sono le rimozioni, cioè togliere un campo, sì, o cambiarlo di nome o rinominarlo, oppure, okay, togliere una un'operazione che prima avevi proprio, o rinominarla, insomma non renderla più raggiungibile. Però è più sottile l'errore, perché il contratto col tuo cliente non si limita al formalismo dell'API, ma a quello che tu gli avevi promesso di dargli. Perché se l'API rimane uguale, ma tu gli passi un contenuto diverso, stai sbagliando. Non è solo un fatto di interfaccia, è un fatto proprio di comportamento. Per questo senso ci sono i test che si chiamano CDC, cioè i test dei clienti, sostanzialmente basati sul contratto. CDC sta per, perché io ho pensato subito... Ma cosa hai pensato? Ma non è il caso di dirlo durante il podcast. È un modo di lavorare basato sui contratti per i clienti. Cioè tu hai detto che c'era una API che ti forniva un elenco ad esempio di insegnamenti, e questi insegnamenti erano ad esempio in ordine alfabetico, diciamo. Uh-huh. Se tu a un certo punto smetti di darlo in ordine alfabetico, l'API è rimasta la stessa, sono tornati insegnamenti, ma non stai rispettando il contratto. Ok, sì, perché hai un cambiamento, sì, diciamo semantico, sì. Quindi queste sono più insidiose di quelle formali, ecco. Sì. E per questo di solito ci sono dei test per catturare, diciamo, che il comportamento rimanga coerente. Che verifichino, sì. Ok, sì, infatti era la cosa che ti avrei chiesto subito dopo. Bene, sì, dicevamo, allora un'altra cosa da fare, per un altro suggerimento, è quello di rimandare il più possibile i breaking change. Cioè, so che sembra stupido, ma se tu devi sai per certo che devi fare una modifica che cambierà l'interfaccia, uh-huh, rimandala il più possibile. Il più delle volte è possibile rimandarla così a lungo da risolvere il problema. Da dimenticarsi. Si valutala questa possibilità. Poi naturalmente creare batterie di test per ogni cliente conosciuto. Scusa se rompo, però tu mi dici rimandare il più possibile questa breaking change. Sì. Sono d'accordissimo. Però all'atto pratico in cosa si traduce? Che invece che trasformare il metodo A, io devo aggiungere un metodo A1? Sì, no? Vediamo fra un po' che si fa diversamente. Però sì, sarebbe proprio cercare di non fare quella modifica, perché devi dire ai tuoi responsabili, ai tuoi progettisti, che spacca i client. Dovrebbero già sapere anche loro, ma tu glielo puoi dire. Devi dire, questa è una modifica potenzialmente letale. Pensiamoci bene prima di metterla su, rimandiamola. E Questo però, scusa, allora la cosa che penso dopo questo che mi dici è che questo introduce delle limitazioni a come può evolvere il nostro software, o comunque sta mettendo un, sì, non dico un paletto, ma una difficoltà nella possibilità di evolvere del nostro software. Sì, stiamo girando intorno a questo tema da un po', nel senso che il fatto di formalizzare queste API è in qualche modo un limite, diciamo, rispetto a come si lavorava precedentemente, quando eri tu stesso che facevi la classe, tu stesso che la fruivi. Devi stare più attento, cioè devi stare più attento in questo campo. E quindi cercare di, cioè devi avere la coscienza che quel punto è un punto delicato, è un punto delicato del sistema, non deve essere manipolato in continuazione, non deve essere così volatile come poteva essere precedentemente, bisogna stare più attenti lì. E quindi tra le strategie, la più povera, diciamo, è quella di cercare di rimandarlo. Mm-hmm. Ci sono strategie più efficaci, per esempio, una è quella di creare batterie di test per ogni cliente supportato. L'ho visto fare raramente, però è un consiglio che si dà, cioè tu sai che hai 5 client, non so, uno si collega in .NET, uno si collega in Ruby, l'altro in Java, e tu hai fatto i client per emulare quello che fanno loro, cioè hai dei test che emulano come si comportano i tuoi client, e quando fai una modifica lo fai girare su questa batteria di test. Non l'ho visto fare tanto spesso. L'ultimo modo invece è quello sicuramente più interessante, cioè quello delle interfacce parallele, cioè se non sei riuscito a fare di meglio ed è necessario fare una modifica, allora tu puoi dare una versione successiva alle tue API. Mm-hmm. Quindi prima accedevano il tuo servizio /v1, che era la prima versione delle API. Da un certo punto in avanti continui a mantenere il v1, ma fai gli affianchi il secondo, in modo tale che i client nuovi possono passare sulla nuova versione e i client vecchi sulla vecchia. Questa è una cosa che non puoi fare ad esempio con l'RPC. Intendo dire, è chiaro che puoi chiamare anche lì un'altra interfaccia, ma spacchi lo stesso i client. Invece qui non spacchi i client, i vecchi continuano a funzionare, i nuovi continuano a funzionare. E lo svantaggio te lo puoi immaginare da solo, per te che devi mantenere. Quindi sarebbe anche in questo caso come una soluzione temporanea per poi eliminare il prima possibile le vecchie API. Cioè, mm-hmm, è chiaro che internamente tu magari fai solo un fast-save sopra per poi chiamare sotto la stessa logica, però insomma è comunque fastidioso. Hai comunque sì, fastidio di due cose da tenere. E qui parlavamo lato server, sì, cioè come fare a mantenere le interfacce, il contratto che tu hai fatto con il tuo cliente, lato del servizio. Ma anche il client può fare, anche lui ha delle strategie per cavarsela al meglio. Ok, sentiamo cosa ci propone. Io ti propongo il modello Tolerant Reader, questo ti piacerà molto. Ad esempio, visto che spesso lo scambio avviene in JSON, sì, a noi capitava di mappare questi modelli che prendevamo da un servizio con delle librerie come Xtreme, ad esempio, no? Che automaticamente passava da un formato a un altro, oppure con JSON, insomma, tanto. Okay. Per capirci, il fatto sta che si aspettavano di trovare tutti i parametri della classe. Questo modo di lavorare è sbagliato perché fai finta che tu debba inviare un'email, mm-hmm, e hai bisogno, come dato ti arriva un utente, uno studente, no? Con tutti i suoi dati, il nome, il cognome, la via, eccetera. Se tu usi l'approccio che citavo prima, tu avrai rifatto dentro la tua applicazione, dentro il tuo client, è proprio una classe studente che ha nome, cognome, che corrispondono ai dati JSON che ti arrivano. Okay. E poi è un mappaggio automatico che prende i dati JSON e ti popola tutta la tua classe con dei dati di cui non te ne frega niente. Mm-hmm. Questo approccio, che si chiama lettura tollerante, prevede prima di tutto di leggere solo i campi che ti servono. Perché sì, devo andare. Quindi fai finta che il server a un certo punto cambia degli altri campi che tu non tocchi, scampi il guaio, tu continui a funzionare. Neanche te ne accorgi. E quindi insomma l'utilizzo di queste librerie automatiche è un po' ridimensionato, anche perché pensa, tu hai bisogno dell'indirizzo email, no? Ad esempio, e te lo aspettavi a livello di radice di JSON, quindi nome, cognome, email. Sì. A un certo punto il tuo amico service, il tuo servizio, te lo sposta, dice che deve stare in un oggetto a sé, innestato. Con anche il tipo, con anche email il tipo. Lavoro, sì. Email casa. Se tu l'avessi tirato su con una query del tipo XPath, sì. O JSON path, non lo troveresti più lì. Non lo trovi più lì, ma lo tiri su. Se tu cerchi semplicemente email, ovunque si trovi, lo tiri su. Ah, addirittura. Il tolerante reader suggerisce proprio questo, cioè devi essere proprio molto tollerante nel dato come ti arriva, capito? E invece che essere molto formale, è proprio il contrario di SOAP. Ok, ho capito. Mi viene da dire che può portare poi a dei problemi di, non dico di ambiguità, ma di, potresti avere degli errori. È vero. Legati al fatto che non hai questo formalismo, non sei tra virgolette fortemente tipizzato. È così, quindi va utilizzato anche qui con cautela. Sono suggerimenti, cioè tutte queste cose, che tutto questo movimento dei microservizi è proprio l'opposto del movimento di SOA, nel senso che SOA ti dava delle regole certe che valevano sempre, c'era un WSDL, un BPL, un'orchestrazione, tu le applicavi e funzionava. Loro ti dicono, ti suggeriscono, guarda che molte volte te la puoi cavare semplicemente cercando email. Cioè, mi stai parlando di buonsenso. Buonsenso, sì. È solo che, per esempio, io questa cosa mi ha sorpreso, perché io non l'avrei fatta, proprio perché la considero un po' insicura, no? Anch'io. Però perché il problema del buonsenso è che è relativo. È relativo, sì. No, in effetti, molte volte, cioè, l'email è quella email lì. Tu hai bisogno di quella. Se riesci a tirarla fuori in un modo molto tollerante, è meglio, sei più slegato dal tuo server, sostanzialmente. Lo butto come consiglio. Sì. Ok, sì, infatti sicuramente questo tolerant reader lo voglio approfondire, perché mi sembra carino, ma sento puzza di bruciato. Potrebbe essere un imbroglio. Ok. Un altro suggerimento, sempre lato client, invece, è il discorso di collegarsi a una versione specifica di interfaccia, cioè Google. Ok. Molti non sono d'accordo a questo, con questo, perché se lo considerano un accoppiamento. In realtà è un accoppiamento minimo, secondo me, cioè è solo la URL dove vado a cercare le interfacce. Però ecco. Cioè, perché c'è gente che dice no. Il servizio che deve comunque dirti dove andare a cercare le URL. Lo vediamo fra un po' con EITOS. Ok.